giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Il giorno dopo le lauree ai presidenti Mattarella e Pahor, Trieste ancora impressa l'immagine dei due statisti che si tengono per mano davanti ai monumenti di Basovizza nel 2020. Gli immigrati che lavorano in Friuli Venezia Giulia inviano le famiglie nei propri paesi di origine oltre 167 milioni di euro l'anno, in cima alla graduatoria delle rimesse i bengalesi seguiti dalle donne georgiane. Partecipata all'assemblea pubblica del Comitato Salute FVG davanti al municipio di Gorizia per chiedere alle istituzioni, medici di famiglia e l'accorciamento delle liste di attesa. Ospiterà persone con disabilità i cui familiari stanno invecchiando il centro diurno della comunità del Melograno inaugurato questa mattina a Pradamano. Il raccordo autostradale tra Prosecco e Sistiana rimarrà chiuso dalle 21 fino a lunedì per avviare i lavori della demolizione del cavalcavia autostradale di Duino. Il Cammino di San Cristoforo e il Cammino Celeste inseriti nella manifestazione nazionale dei cammini aperti, mentre la Varresia invita gli escursionisti a scoprire i suoi sentieri antichi. Alla Piscina Bianchi di Trieste la Final Four femminile della Eurocup, la pallanuoto Trieste in semifinale alle 17:30 contro le olandesi De Zaan. Al Palacalvola di Trieste va di scena l'inclusività con Sportin, un'occasione per provare 5 discipline inclusive e festeggiare il pluricampione di tennis tavolo Matteo Parenzan. Buongiorno da Maria Spezia e Nada Cioc. L'immagine dei due presidenti, Mattarella e Pahor, che si tengono per mano e assieme rendono omaggio al monumento delle foibe e a quello dei quattro fucilati sloveni a Basovizza, rivive nell'immaginario collettivo dopo la cerimonia di ieri del conferimento della laurea in giurisprudenza ai due statisti proprio per il loro impegno nella riconciliazione delle ferite che hanno segnato queste terre nel XX secolo. Non ci sono distinguo politici di rilievo sull'importanza storica della giornata di ieri. I commenti degli esponenti dei partiti hanno riconosciuto il valore del percorso di riconciliazione portato avanti da Sergio Mattarella e Borut Pahor, un percorso non scontato, come lo ha definito lo stesso presidente italiano nel suo discorso. La laurea honoris causa dell'Università di Trieste suggella un avvicinamento simbolicamente segnato dalla visita mano nella mano alla foiba di Basovizza il 13 luglio 2020, quando i due presidenti resero omaggio anche al monumento ai fucilati sloveni del Tiger. Il momento era delicato perché fino al mese prima i confini erano sigillati per la pandemia. L'avvicinamento aveva radici profonde, come la relazione della Commissione Mista Storico-Culturale Italo-Slovena pubblicata nel 2001, il concerto dei tre presidenti in Piazza Unità d'Italia nel 2010 e la promessa, ora in via di compimento, della restituzione alla comunità slovena del Narodni Dom di Via Filzi. Punti fermi citati nei discorsi in Aula Magna. La giornata di Mattarella e Pahor è proseguita in prefettura, dove mercoledì si erano recati i promotori dell'appello al capo dello Stato affinché si trovi una soluzione per i migranti accampati al Silos, un appello firmato da 7.500 persone che, come da prassi, è stato trasmesso al Quirinale. Da segnalare, infine, un fuori programma. Un ragazzo ha tenuto il braccio destro alzato per tutto il discorso di Mattarella tra il pubblico. Non un saluto romano è stato appurato dalla polizia subito dopo, ma la volontà del giovane, uno studente ucraino, di intervenire per ringraziare il presidente italiano per l'impegno a favore del suo paese aggredito dalla Russia. Antonio Di Bartolomeo, TGR Friuli Venezia Giulia. Nel 2023 gli immigrati che lavorano in Friuli Venezia Giulia hanno inviato a casa oltre 167 milioni di euro, con un aumento di oltre 3 punti percentuali rispetto all'anno precedente. Si tratta di uno degli incrementi percentuali più elevati registrati in Italia. Solo Molise e Basilicata presentano variazioni superiori. Lo rende noto il ricercatore dell'Istituto di Ricerche Economiche e Sociali del Friuli Venezia Giulia, Alessandro Russo, che ha rielaborato dati della Banca d'Italia. A livello nazionale, nel 2023, i migranti hanno inviato nei propri paesi di origine in tutto 8,2 miliardi di euro. Per quanto riguarda i principali paesi di destinazione, il Bangladesh dal 2017 è stabilmente il principale paese di destinazione dei flussi in uscita dalla nostra regione, con quasi 40 milioni di euro. Al secondo posto spicca il notevole aumento delle rimesse verso la Georgia, 22 milioni e mezzo, in gran parte originati dall'ex provincia di Udine, perché quanto concerne i cittadini georgiani residenti in Italia in Friuli Venezia Giulia, si può osservare che si tratta prevalentemente di donne ultra cinquantenni che si occupano di assistenza alle persone anziane. Al terzo posto si trova il Pakistan con 20 milioni e mezzo di euro. La parte di reddito risparmiata da un lavoratore straniero inviata al proprio nucleo familiare nel paese di origine costituisce un importante fattore di sviluppo e cooperazione internazionale, ha un impatto rilevante sui beneficiari, commenta Alessandro Russo. Si è conclusa poco fa a Gorizia l'assemblea pubblica organizzata dal Comitato Esontino del Coordinamento Salute Friuli Venezia Giulia. Davanti al municipio goriziano i manifestanti hanno denunciato le carenze dei medici di base e presentato un vademecum per ottenere il rimborso delle prestazioni private. Sentiamo Daniela Careddu del Comitato. A Gorizia attualmente siamo in meno di 40.000 abitanti e più di 4.000 persone non hanno più il medico di medicina generale, il che significa mancanza del rapporto di fiducia, il rapporto di continuità, di presa in carico che il medico di base può garantire. L'azienda sanitaria ha cercato di sopperire all'emergenza istituendo gli ambulatori sperimentali di assistenza primaria, che però non hanno quelle caratteristiche, quella funzione che aveva il medico di base, perché qui i medici ruotano, non troviamo sempre lo stesso medico e di conseguenza non riusciamo a costruire un rapporto. Sul tema delle liste d'attesa abbiamo preparato un vademecum di sopravvivenza per il cittadino nel quale spieghiamo come ottenere il rimborso delle prestazioni che il cittadino è costretto a chiedere al privato nei casi in cui l'azienda sanitaria pubblica non dia una risposta. Gorizia, Maurizio Mervar, TGR Friuli Venezia Giulia. Ospiterà un centro diurno per persone con disabilità della comunità del Melograno, il casale battezzato Casa Nostra, che è stato inaugurato questa mattina all'Ovaria di Pradamano in Via della Libertà. La struttura, riqualificata con moderne tecniche edilizie, intende essere funzionale per lo svolgimento delle attività occupazionali delle persone con disabilità, come anche per le loro famiglie e per il territorio. Obiettivo dell'iniziativa: affrontare il problema del durante e dopo di noi legato all'invecchiamento dei familiari. A Giorgio Dannisi, presidente della comunità del Melograno, abbiamo chiesto con quali criteri siano stati ristrutturati gli spazi. Si devono avere alcuni accorgimenti se sono con disabilità fisica di tipo domotico, per esempio, ma non necessariamente cose particolari, se non magari l'affiancamento di figure che possono assistere per una sorta di autonomia nelle funzionalità che a volte possono essere non al 100% e quindi hanno bisogno di interventi. Ma è certo che ci sono poi situazioni di socialità che vanno stimolate e alimentate, e l'interagire, quindi la cosiddetta condivisione con il territorio, con le persone del territorio, e noi devo dire che abbiamo decine di volontari che ci sono molto vicini, e questo anche in controtendenza rispetto a molte realtà che fanno fatica ad averne, perché si è creato un ambiente, un clima dove c'è un'osmosi e dove le persone con disabilità trasmettono inclusione nei confronti delle persone cosiddette normodotate e viceversa. Quindi sono valori che devono essere anche un po', se vogliamo, riscoperti rispetto a quello che è il bene comune, che è una parola molto usata, a volte anche abusata, che invece deve tornare di moda, soprattutto in tempi così complessi come quelli che stiamo attraversando. È stata presentata all'ospedale di Udine la seconda edizione della maratona di 24 ore del dono del sangue che l'Associazione Friulana Donatori Sangue Provinciale ha organizzato per il 13 giugno e a cui già da lunedì i volontari potranno iscriversi. Obiettivo dell'iniziativa: superare il record dell'anno scorso e passare da 220 a 250 donazioni e a oltre 116 litri di sangue raccolti lo scorso anno. Il progetto poi va oltre l'attività promozionale del volontariato per diventare anche una esercitazione generale del sistema di raccolta sanitaria in caso di grandi emergenze. Altro aspetto dell'iniziativa: il suo valore scientifico, che lo scorso anno ha consentito di valutare gli effetti della donazione al di fuori di orari tradizionali di inizio mattina. Alla maratona non si potranno prenotare nuovi donatori per evitare possibili esclusioni in sede di accertamento dei requisiti necessari, che rischierebbero di rallentare le operazioni e far perdere il ritmo all'accesso dei volontari. Giornata di festa per il Comitato Pordenonese della Croce Rossa Italiana, che alle 15 inaugurerà la nuova struttura logistica in via della Comina. Al taglio del nastro parteciperà anche il presidente nazionale Croce Rossa Italiana, Rosario Valastro. Passiamo al meteo, sono le 12.40, il cielo è sereno su tutta la regione, queste le temperature registrate alle 11, a Trieste 25 gradi e mezzo, a Gorizia e Pordenone 25, a Udine 24 gradi e 5 decimi, in Aramontana Tolmezzo 21, Forni di Sopra 20, Tarvisio e Sappada 18 gradi, Piancavallo 17, in quota sul Monte Zoncolan 13 gradi e mezzo, sul Monte Lussari 11 gradi e mezzo, sulla costa Lignano 23 e a Grado 22 gradi. Per questo pomeriggio si prevede cielo sereno velato, da nubi sottili a quote molto alte, venti di brezza, temperature ben oltre la norma del periodo e praticamente estive in pianura, area montana, meno a Trieste per la brezza più fresca dal mare. Al via i lavori per la demolizione del sovrappasso autostradale di Duino. Oggi è prevista la chiusura al traffico della corsia di sorpasso dalle 17 alle 18 e dalle 21 avrà la chiusura del raccordo autostradale in entrambi i sensi di marcia e su tutte le corsie, con uscita obbligatoria a Sistiana in direzione Trieste e uscita obbligatoria a Prosecco in direzione Venezia. Il raccordo rimarrà chiuso fino a lunedì, quando è prevista la riapertura in direzione Trieste dalle 6. La corsia di marcia in direzione Venezia resterà chiusa fino alle 20 di lunedì. Le opere per oltre 2 milioni di euro finanziate dalla regione porteranno alla sostituzione dell'attuale impalcato in calcestruzzo con una nuova struttura mista in acciaio calcestruzzo. Prima giornata per l'evento nazionale Cammini Aperti, sono due i cammini previsti per ogni regione a cui si può partecipare previa iscrizione sul portale. Le escursioni, che avranno la caratteristica di essere tracciate su un percorso ad anello e di avere una lunghezza tra i 6 e i 10 chilometri, saranno condotte da guide ambientali o accompagnatori di media montagna. In regione in programma per domani il cammino di Celeste, mentre oggi in calendario il cammino di San Cristoforo. Ad Alessia Del Bianco, referente area cammini di Promo Turismo FVG, prima della partenza dell'escursione abbiamo chiesto come siano stati selezionati gli itinerari. Una delle sensibilizzazioni sempre maggiore nei riguardi delle persone con disabilità o con qualche problematica che può essere motoria o sensoriale o cognitiva. Quindi noi abbiamo cercato di identificare due percorsi che si sviluppano attorno a due città che stanno lavorando molto in quest'ottica. Quindi questi due percorsi saranno accessibili, le guide sono preparate anche per accogliere persone con disabilità, sperando che sempre di più quindi ci sia questa volontà e questa libertà di mettersi in cammino da parte di tutti quanti. E il focus principale della camminata di oggi di San Cristoforo quale sarà? La camminata di San Cristoforo sarà una camminata che ci permetterà di scoprire un po' di paesini, di borghi intorno proprio alla più famosa Spilimbergo, quindi si passerà attraverso Gaio, Baseglia e ci saranno tutta una serie di attrattive naturalistiche, perché è un percorso immerso praticamente completamente nella natura, per poi ritornare su Spilimbergo, dove in giornata poi ci sono anche tanti altri eventi che permetteranno anche di scoprire tutti i monumenti principali come il Duomo, come la Scuola del Mosaico e la cittadina stessa. La Val Resia invita gli escursionisti a scoprire i suoi sentieri immersi nella natura. L'amministrazione comunale, assieme all'Ecomuseo, ha lavorato per recuperare alcuni tracciati e renderli fruibili anche ad escursionisti non pratici della valle. È nata un'offerta diversificata che si intitola Potiponas, scopri i sentieri della Val Resia. In tale progetto rientra il percorso Tastara Pot, il vecchio sentiero, caratterizzato da una serie di sentieri in tempo praticati dai locali che permette di conoscere il territorio nella sua interezza grazie al tracciato ad anello che può essere percorso sia interamente che a tratti. La presentazione questa mattina. Ad Argene, all'ex caserma Tagliamento, sono state aperte al pubblico le sale storiche allestite dalle associazioni Storie dal Fronto e Fanti d'Arresto, che rappresentano anche il punto di partenza dal corso di escursionismo e ricerca storica. Gavette, vettovagliamento vario, armi, munizioni, ramponi, tutto quello che riguarda la Prima Guerra Mondiale, la Seconda e la Guerra Fredda, recuperati in Friuli Venezia Giulia, restaurati e esposti in tre sale nell'ex caserma Tagliamento ad Arzene, grazie a due associazioni storiche, Dal Fronte e Fanti d'Arresto, che oggi ha visto la sua inaugurazione. Una giornata che è iniziata con l'alza bandiera, l'esposizione di cimeli storici presso gli stand e poi la visita alle sale del museo. Un progetto con tante finalità e un corso base di escursionismo e ricerca storica sui luoghi della Grande Guerra. Marco Caputo, presidente di Storie dal Fronte. Creare una situazione didattica ed espositiva, soprattutto rivolta ai giovani, alle nuove generazioni, per far comprendere loro qual è il valore degli oggetti che recuperiamo sui campi di battaglia tramite ricerche, sia su studio di libri di testo che sul posto, tramite l'utilizzo di cercametalli e conoscenze storiche. È un buon modo per coinvolgere i giovani e cercare di mantenere in efficienza un posto che altrimenti magari andrebbe nell'abbandono e renderlo disponibile alla collettività. Non solo recupero e riutilizzo di caserme ormai dismesse, ma anche bunker restaurati e fruibili per visite. Al video Canavese, presidente Fanti d'Arresto. Abbiamo restaurato a nostre spese e organizziamo delle aperture programmate al pubblico, comprese anche aperture didattiche con scolareste, dove abbiamo avuto un discreto seguito di visite e naturalmente appassionati delle fortificazioni permanenti. Questo naturalmente è fatto tutto a spese dell'associazione e con apporto volontario di noi associati. Arzane, Giovanni Tormina, TGR Friuli Venezia Giulia. Don Stefano Stimamiglio, direttore del settimanale Famiglia Cristiana, sarà ospite dell'incontro promosso dall'Ufficio per la Cultura della Diocesi di Trieste con il patrocinio dell'Ordine dei Giornalisti a Sostampa e Articolo 21 su I Media, ostacolo risorsa per la partecipazione democratica. L'evento sarà introdotto dal Vescovo di Trieste Enrico Trevisi. L'appuntamento alle 17 al Circolo della Stampa di Trieste. È stata inaugurata ieri sera al Museo di Santa Chiara di Gorizia la mostra Tullio Crali, una vita per il futurismo. In esposizione, con ingresso gratuito fino al 29 settembre, ci sono oltre 200 opere tra dipinti, sculture, disegni, progetti di architettura, scenografie, cartelloni pubblicitari, sassintesi e altre creazioni sperimentali e innovative. La rassegna è stata organizzata dal Comune di Gorizia nel percorso di avvicinamento a Go 2025, capitale europea della cultura, con Nova Gorizia. Nell'ambito di Pordenone Dogs Fest viene presentato in anteprima nazionale Coppa 71, il film che racconta la Coppa del Mondo di calcio femminile disputata in Messico nel 1971. La capitana della nazionale italiana allora era la friulana Elena Schiavo, che ricorda quell'esperienza indimenticabile. Io sono nata atleta, sportiva e dovevo fare qualcosa nella vita. Meno male che ho trovato sia il calcio che l'atletica, altrimenti chi mi teneva? Cioè un temperamento sanguigno. Battagliera allora come oggi, Elena Schiavo, 75 anni, friulana, ex capitana della nazionale, e lei quell'agosto 1971 c'era. Città del Messico, Coppa del Mondo di calcio femminile allo stadio, più di 100.000 persone, uno straordinario evento dimenticato dalla storia dello sport e portato sul grande schermo dal film Coppa 71 di Rachel Ramsey e James Erskine, presentato in anteprima nazionale al Pordenone Docks Fest. Io sono entrata, ho delle foto che sembra che vada in campo proprio in guerra, e tutte le altre poverine erano bianche cadaveriche perché battono i piedi per terra. Credevamo venisse giù lo stadio, no? Io ho detto, ma come affrontiamo queste qua? Come ha fischiato l'arbitro, hai dimenticato tutto. Pioniera del calcio femminile, ha lottato in campo e fuori sfidando pregiudizi e perbenismo. Il ricordo è indelebile, però dopo, pensandoci gli anni, dice, ma chi ce l'ha fatta fare a fare tutte quelle baruffe, ecco. E come lo vede il calcio femminile oggi? Cosa dicono adesso delle ragazze che giocano a calcio, secondo te, che sono riuscite anche a entrare nel professionismo? È una lotta di sopravvivenza, continua, anche a voi. Pordenone, Natascia Gargano, TGR, Friuli Venezia Giulia. E siamo al basket. A due Cividale ha centrato la nona vittoria nella fase orologio. Ieri sera la palla Gesteco contro Casale Monferrato è finita 89-64. Questa sera gioca Apu contro il Rieti alle 20:30 e domani il turno dei Triestini contro l'Urania. Nel basket femminile, Delser gioca in casa al Palacarnera contro Umberti, una prova di affinamento verso i playoff e ultima gara interna anche per Futurosa contro Abano Terme alle 18 a Pala Trieste. Pallanuoto femminile, Trieste ospita la Final Four della Eurocup. La Pallanuoto Trieste è pronta per l'appuntamento probabilmente più importante dei suoi 20 anni e poco più di storia. Oggi alle 17:30 nella semifinale la squadra triestina affronterà le olandesi del De Zaan. Ingresso gratuito in tribuna. Nell'altra semifinale alle 19:30 il plebiscito Padova se la vedrà con il BVSC di Budapest. Chi passa si giocherà la coppa nella finalissima di domenica alle 17:30. I perdenti invece si incroceranno nella finalina per il terzo posto domani alle 15:30. In Coppa Italia maschile, Pallanuoto Trieste è uscita sconfitta contro N Brescia per 9-6, perdendo le ambizioni di rincorrere la Coppa. Rimane in corsa per il quinto posto. Pallamano Trieste si gioca una partita cruciale per la salvezza in Serie A Gold. Gioca contro Rubiera alle 19. Con la vittoria si assicurerebbe la matematica certezza di restare nella Gold senza passare per le forche caudine dei play-out. 200 canottiere triestine hanno formato questa mattina il Fiume Rosa nel Golfo da Barcola a Piazza Unità, un'iniziativa promossa dalla Fondazione Atena Onlus in occasione della Giornata della Salute della Donna e che si svolge in contemporanea in 30 città italiane. A Trieste 200 atlete hanno preso parte alla sfilata di imbarcazione di canottaggio e hanno remato fino alla Scala Reale. Obiettivo: la sensibilizzazione per le donne di prendersi cura della propria salute effettuando gli screening consigliati. La seconda edizione di Sportin, la festa dello sport inclusivo, durante la quale sarà possibile cimentarsi in 5 discipline, dal karate inclusivo alla danza sportiva, para rowing, baskin, calcin e tennis tavolo, inizierà alle 15 a Trieste alla Palacalvola. Durante la manifestazione assolutamente gratuita organizzata dai club Lions e Lio di Trieste, Eduino Aurisina, il Panathlon in collaborazione con la Fondazione Monticole Foti e San Vito Pallacanestro, si esibiranno atleti e squadre di associazioni sportive presenti sul territorio che si occupano di sport inclusivo. Sarà anche l'occasione per festeggiare Matteo Parenzan, neocampione italiano di tennis tavolo e pluricampione in generale della disciplina. E domani, dopo il giornale radio delle 8:30, andrà in onda la nostra rubrica dedicata Vita nei campi, le anticipazioni. Vita nei campi, il settimanale radiofonico di agricoltura della nostra redazione, in onda la domenica alle 8:50 su Radio 1 Rai. Domani è in apertura il corso per giardinieri d'arte capaci di intervenire in aree verdi e parchi storici. A seguire Angelo Floramo dipinge il mercato settimanale, rituale del mondo contadino e occasione d'incontro. Coltivare piante da frutto in serra o sotto tunnel, una pratica nel passato poco usata che oggi conosce una certa diffusione. E ancora, conoscere e assaggiare il vino nella maniera più appagante, ovvero trasformandosi in turisti. Per lo spazio che dedichiamo alla conservazione del cibo, tutti i consigli su come trattare la farina. In conclusione, andamento dei mercati agricoli, previsioni meteo e il proverbio friulano. Appuntamento domani alle 8:50 su Radio 1 Rai con Vita nei campi. Udine, Rita Micoli, TGR Friuli, Venezia Giulia. Sulla terza rete televisiva Rai domani andrà in onda la rubrica della nostra testata Est Ovest. Sentiamo quali saranno i titoli. I carabinieri e i militari italiani determinanti per il mantenimento della sicurezza nel nord del Kosovo. Mercoledì i croati, in un clima di incertezza politica, voteranno per eleggere il nuovo Parlamento. In Ungheria la crisi economica e il costo dei mutui colpiscono le famiglie che cercano un'abitazione. In Polonia l'uso del carbone per il riscaldamento domestico provoca gravi problemi di salute. La storia di Sania e Zoran, rifugiati in Piemonte, raccontata nel documentario Il respiro di Sarajevo. Tutto questo è Stovest, domenica alle 11:05 su Rai 3.